Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Questa sera parliamo di una vicenda decisiva per il futuro del paese, che purtroppo rischia di passare del tutto inosservata, anche un po' così coperta dal rumore di altre notizie che occupano la ribalta della cronaca in questi giorni. Il decreto legislativo, infatti, che mercoledì approderà in Consiglio dei Ministri, potrebbe decretare niente meno che, insomma, l'affossamento, per non usare mezzi termini, di buona parte, gran parte del settore delle rinnovabili in Italia, colpendo soprattutto il fotovoltaico, ma anche tutte le altre fonti come l'eolico, le biomasse e l'idroelettrico, quando in questo caso si parla di impianti di medio grandi dimensioni o di grandi dimensioni. Subito sono partite le grida d'allarme delle associazioni di categoria, che una volta tanto sono tutte d'accordo. Noi stasera ne parliamo di questa vicenda con Aper. In linea con noi c'è il direttore Marco Pigni. Buonasera Pigni. Buonasera Melis, buonasera agli ascoltatori. Allora, buonasera, ma mica tanto, si direbbe, perché questo decreto legislativo è molto pesante per il comparto delle rinnovabili. Proviamo a entrare nel dettaglio, diciamo, dei due o tre provvedimenti che considerate più perniciosi. Sì, allora, questo decreto deve recepire la direttiva del 2020 che ci porta a fare il 17% di energia da fonti rinnovabili. La direttiva europea, certo, direttiva di riferimento. Europea. Certo. E quindi è fatto per promuovere e sviluppare in tutti i paesi UE la maggior potenza fotovoltaica, maggior potenza eolica, biomasse e così via. E invece prime righe dicono questo. Nel leggendo il testo si trovano molti provvedimenti che invece di promuovere bloccano, cassano, dichiarano quasi moratorie praticamente. Sì, bloccano, forse, e congelano il sistema. Ecco. Una su tutte è previsto che al raggiungimento di 8.000 megawatt di fotovoltaico installato in Italia, e adesso siamo a 3.700 circa sicuri, più quest'anno tutti i vari conti che si dovranno fare di installazioni. Potremmo trovarci a 7.000, forse a 6.000, ma sarà difficile meno di 6.000 probabilmente. Esatto. Quindi entro fine di quest'anno, diciamo massimo inizio 2012, si blocca tutto, sono sospese tutti i provvedimenti contenuti nel terzo conto energia in attesa di future decisioni, quindi moratoria, quindi, di fatto. Quindi sostanzialmente questi 8.000 megawatt che ci eravamo dati noi come obiettivo al 2020, siccome rischiamo di raggiungerli quest'anno, anzi probabilmente li raggiungeremo nel corso del 2011, se il governo non aumenta questa quota obiettivo si blocca tutto, cioè gli incentivi non ci sono più, praticamente il fotovoltaico non è più incentivato in Italia. Dal 2012, se rimane tale, rischia veramente così. Posti di lavoro che... quanti se ne vanno in una situazione del genere? So che non avete la palla di cristallo. Non abbiamo la palla di cristallo. Comunque il rischio vero è che decine di migliaia di aziende costituite e almeno 50.000, 100.000 addetti diretti e indiretti dovranno probabilmente rivedere la loro posizione lavorativa o trovare collocazione in altri comparti. In altri settori. Ecco, questi sono solo per il fotovoltaico, questi numeri? Questi sono numeri per il fotovoltaico diretti e indiretti, okay, e per l'eolico. Che è un'altra fonte che subirebbe, diciamo, un colpo invece dalla riduzione del valore di ritiro sul mercato dei certificati verdi, che sono la forma con cui invece viene remunerato l'eolico. Esattamente, l'altro dispositivo contenuto molto negativo che contestiamo e che riguarda tutti gli impianti di taglia sopra un megawatt, sì, eolico ma anche idroelettrico nuovo, biomasse, bioenergie, biomasse, è quello della nuova formula per il ricalcolo del valore del certificato verde che ritira il gestore del servizio energetico ogni anno, un po' a riferimento di prezzo del mercato del CV. E la proposta è di tagliare del 30%, cioè applicare un coefficiente 0,70 dall'aprile del 2011 in poi fino al 2016. L'altro argomento mi pare controverso è quello delle aste, vero? Sono le aste per la tariffa. Aste al ribasso previste dal 2013 per gli impianti da fonte rinnovabile sopra i 5 megawatt, sarebbe previsto questo meccanismo sul valore dell'incentivo che si accetta. Cioè in pratica l'incentivo viene concordato di volta in volta con un meccanismo di aste al ribasso che probabilmente è affrontabile o sostenibile solo dalle grandissime imprese, questo è un po' il problema, credo, no? È proprio questo. Dunque alla base di questo colpo alle rinnovabili ci sarebbero problemi di cassa, soprattutto le ricadute in bolletta. bolletta, questa è la preoccupazione del ministro Romani. I costi ci sono, dai 2-3 miliardi di euro fino al 2020 per il fotovoltaico e in generale sui 3,5-4 miliardi in totale all'anno per le altre fonti rinnovabili. A fronte di questi costi ci sono benefici sia in valore aggiunto e PIL di circa 6 miliardi all'anno per i prossimi anni. Voi avete anche una controproposta, perché comunque sul fotovoltaico in particolare c'è stata una situazione in cui era evidente ed è evidente che sono partiti come dire, dei fenomeni puramente speculativi, cioè bisogna ridimensionarli, no, sti incentivi. È assolutamente ragionevole pensare a un efficientamento e una razionalizzazione del valore effettivo della tariffa. Va fatta però in un modo non radicale e totale, cioè dal tutto al nulla, ma va fatto, noi proponiamo, con uno strumento, un modello, un po' come si sia fatto in Germania, la tedesca, di una non previsione di alcun tetto massimo, quindi non 8.000 o 10 o 20 o 30 in sé, ma di un meccanismo continuativo che ogni tre mesi aggiorna automaticamente il valore degli impianti nuovi fatti, entrati in esercizio, in automatico fissa la tariffa per i trimestri successivi o i bimestri addirittura di un X% in meno ogni bimestre. A secondo di quanto fotovoltaico è stato installato nel bimestre trimestre precedente. Esatto. È così. Va bene, e andando sull'entità di questi incentivi, voi accettereste le tariffe tedesche che sono parecchio più basse di quelle italiane, più o meno la metà? Un allineamento alle tariffe tedesche può essere contemplato in un arco di tempo di medio termine. L'obiettivo potrebbe essere quello di allinearsi alle tariffe tedesche entro il 2012. Grazie Marco Pigni. Grazie a te Maurizio, grazie agli ascoltatori. State con noi. Beh, e con questa invocazione del direttore di Aper Marco Pigni chiudiamo. Ci risentiamo domani, stessa ora, stessa radio. Buona serata.